Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Bene, 5 minuti di ritardo, giustificati come spesso accade in queste occasioni dal soundcheck, peraltro molto, molto veloce questa sera, perché questo Rock Wave, come avete sentito dalla sigla, sarà uno di quegli appuntamenti che a noi piacciono molto, perché abbiamo in studio un musicista, anzi due musicisti, peraltro vecchie conoscenze della nostra emittente. Il protagonista della serata sarà comunque Alberto Mancinelli, a cui do il benvenuto. Io vi saluto, ciao a tutti. Ed è accompagnato da una nostra vecchia conoscenza, Salvo Ruolo, che gli farà da... cosa fai? Da backing? Faccio la seconda chitarra. Sì, faccio le sei corde. Faccio da sei corde. Quando si rompe qualche corda la cambio. Okay. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Stefano. Il pit stop. Sì. E, in passato loro sono stati nostri ospiti a ruoli ruolo invertito, nel senso che era Salvo il protagonista, e questa sera invece tocca ad Alberto presentarci la sua produzione. Questo è un mini album che si intitola Lucine Intermittenti, è un titolo molto delicato. Sì, è delicato e anche un po' evocativo, perché le lucine intermittenti ricordano un po' le lucine degli alberi di Natale, e anche un po' le lucine delle insegne al neon dei motel americani, per esempio, ed evocano magari delle atmosfere cariche di qualcosa, qualcosa che di un'illusione, di una speranza, come le lucine di Natale, insomma, degli alberi di Natale che ci probabilmente pensare. Quando vediamo lucine del genere torniamo tutti un po' bambini perché sì. Io mi ricordo, insomma, da bambino le luci dell'albero di Natale erano una cosa abbastanza importante. Sì, c'erano come... anche più regali una volta, mi pare. È che ormai siamo troppo grandi per i regali, Salvo. Cioè, adesso ci tocca farli, magari. Prima li ricevevamo. Sì. Esatto. Allora, ci ascolteremo intanto un brano da questo Lucine Intermittenti, e poi cominceremo a fare qualche domanda qui ad Alberto e ad ascoltare naturalmente la musica dal vivo, che è la portata principale della serata. Allora, apriamo questa puntata di Rock Wave qui su Blu Radio Veneto con il brano che si intitola Chiedi, la voce è quella di Alberto Mancinelli. Buon ascolto. Quello che non sei riuscito mai a dire, perché evitare è solo un altro modo di morire. E non comprendi il gioco malgrado tutto il tuo stupore, ma poi rimedi con un po' di finta razionalità. Sempre in giro per le strade in cerca di qualcosa che non c'è. Guarda il giorno che ti fissa e ti sorride lievemente. E non dimenticare quello che ti serve adesso, mani vuote congiunte sul suo seno di brillante. E non sfuggire mai ai tuoi blues, chiedi il conto se vuoi. E non sfuggire mai ai tuoi blues, chiedi il conto se vuoi. E non sfuggire mai, e non sfuggire mai. E non sfuggire mai, e non sfuggire mai. E non dimenticare ogni nuovo volto che vedi. Ricorda ogni sguardo e la magia sarà ai tuoi piedi. Se qualcosa poi muore, qualcos'altro nasce. Il giorno si fa chiaro e la luce è più intensa. Sempre in giro per le strade in cerca di qualcosa che non c'è. Guarda il giorno che ti fissa e ti sorride lievemente. E non dimenticare quello che ti serve adesso. Le mani vuote congiunte sul suo seno di brillante. Yeah. se vuoi. E non sfuggire mai ai tuoi blues. Chiedi il conto se vuoi. Chiedi, chiedi, chiedi, chiedi. Non sfuggire mai. E non sfuggire mai. E non sfuggire mai. E non sfuggire mai. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questo è il primo brano intitolato Chiedi, primo in tutti i sensi perché è anche quello che apre questo album. Sì. E, qui nella tua scheda di presentazione ti definisci un musicante. Sì, sì, è una sì. Parola un po'... fuori dall'ordinario? No, beh, nel senso che non sono un musicista professionista, sono uno che suona quando c'è la possibilità di farlo, ecco, quindi musicante non è neanche detto in senso spregiativo. Ah no, quello assolutamente, è che è diverso dai termini che si usano di solito. Sì, appunto. È un po' un termine un po' arcaico magari, anche. Ricorda un po' proprio i musicanti che andavano in giro per le piazze, e si spostavano con i circhi. Poi vedo sulla tua chitarra hai un adesivo di cui evidentemente sì, sei orgoglioso. Realtà, sì, faccio ancora adesso il basker, nel senso che infatti a Padova credo mi conosceranno ormai. Basker ad honorem, c'è scritto... Questo qui me l'hanno dato al Ferrara Basker Festival. Ah, okay, famoso. Di diversi anni fa a cui ho partecipato, davano questi adesivi un po' a tutti, quindi... A tutti quelli che partecipavano, naturalmente, non ai passati. Tutti quelli che suonavano. In realtà, sì. Come Woody Guthrie. Woody Guthrie era anche lui un basker ante litteram, in realtà. Beh, questo è un movimento molto interessante che, fra l'altro, noi seguiamo. Abbiamo avuto ospiti, ormai sarà passato più di un anno, un gruppo inglese che si chiama Ryan O'Reilly Band, guidati appunto da questo Ryan O'Reilly, che facendo il busking, ovvero sia senza mai chiedere un pagamento ai locali, ma passando poi col cappello classico, sì. Anche quando suonano appunto è in una locali. Cosa che si usa molto nei locali, fuori dall'Italia. Questi io adesso lo seguo sempre Ryan su Facebook, sì. E praticamente hanno girato tutta Europa con questo sistema. Sì, sì, sì, sì. È una cosa molto bella, tra l'altro lui suona moltissimo a Londra, sì. E questo è un piccolo aneddoto che posso dire, era stato in radio qua al pomeriggio e poi dovevano suonare la sera e li ho accompagnati in centro perché dovevano fare un po' di compere e eravamo io e lui davanti al Pedrocchi che aspettavamo gli altri due che erano andati a fare la spesa e un tizio vestito da bancario, un padovano, sì. Ha cominciato a guardarci e io ero un po' in imbarazzo, no? È una storia che un basket faccia piacere, perché lo la racconto. Ero un po' in imbarazzo perché dicevo, questo non mi sembra di conoscerlo, perché mi sta guardando? Poi mi sono accorto che stava guardando Ryan, sì. E a un certo punto si è fatto avanti e un inglese un po' così ha chiesto, ma are you Ryan O'Reilly? E Ryan ha detto, sì certo sono io, perché io ti ho visto suonare a Londra. Ma cosa fai a Padova? E poi la sera ha portato 4 o 5 amici nel locale dove Ryan si è suonato. Si è proprio ricordato perché appunto Ryan suona tantissimo in centro a Londra e penso era contentissimo. È rimasto impresso, evidentemente. Sì, beh, sono molto bravi loro. C'è il podcast in download, come tutti i programmi che vengono fatti qui sul nostro sito per chi l'avesse perso. Comunque, ecco, mi ha fatto effetto vedere che impatto può avere anche un musicista di strada su un passante. Ed è vero, è una cosa molto positiva. A me un po' ricorda il fatto di portare un po' la musica alle origini, cioè in effetti l'industria discografica è nata in fondo nel Novecento, no? Nei primi del Novecento, ma anche i bluesmen dei primi del Novecento suonavano per strada, suonavano nei localacci, ma anche molti erano musicisti di strada, insomma portavano la musica facevano sentire alla gente che passava, insomma. Robert Johnson ha inciso, cioè ha registrato, le uniche registrazioni che abbiamo sono state fatte in una camera d'albergo. Sì, appunto, insomma. Ma in realtà questa dimensione forse ce l'hanno anche i grandi musicisti. Ce l'hanno anche i grandi musicisti. Mi avvicino, eccolo qua. perché ricordo una sera, insomma, una cosa piacevolissima. dopo che Robin Hitchcock, che tu conosci bene, che voi conoscete bene, ha suonato assieme a Steve Wynn, c'era Chris Kaka, c'era Antonio Gramentieri, che tu conosci, c'era Rigo Righetti, insomma gente così. Dopo il concerto ci siamo ritrovati dietro l'Anabi, diciamo dietro il palco, e si è presa un'acustica, abbiamo cominciato a fare i pezzi, insomma abbiamo suonato tutti insieme, e ha fatto Robin Hitchcock, ha fatto Ed In The Life, che tu sai come la fa, che è stato straordinario. Quindi voglio dire, questa dimensione, come dire, dello stare insieme in una maniera un po' più, come dire, stradaiola, in realtà i grandi musicisti penso che l'apprezzino, è una cosa che ti riporta, come diceva Alberto, alle origini. Anche è bella, un molto senso bella. Di maggiore libertà e rilassatezza. In realtà per strada tu puoi suonare veramente quello che ti pare, cioè senza avere l'assillo magari del pubblico che ti sta guardando, che magari dice piacerò, non piacerò, sbaglierò, non sbaglierò. Insomma, devo fare la scaletta in una certa maniera. Cioè, l'unico assillo sono... Fai veramente quello che ti pare, ecco, suoni, e poi se piace ovviamente la gente si ferma. L'unico assillo sono i vigili. No, ma no, a Padova no, per esempio, Padova. Per fortuna. Mi pare punto di vista. Dovrebbero intervenire solo se uno canta male. Come vabbè. Quella in topless brutto, via. Possiamo cominciare, potete cominciare a suonarci qualcosa? Sì, faccio un pezzo che si trova su questo disco, sull'ultimo disco registrato, si titola Corsia d'emergenza. Ha questo titolo un po' strano perché in realtà parla un po' di questa canzone, di mutamenti di rotta da intraprendere, di un vagare, di un viaggiare quasi senza meta. Però preferendo farlo in corsia d'emergenza significa preferendo non viaggiare in corsia di sorpasso, ma andare praticamente a seguire il proprio passo, la propria destinazione con la propria velocità, insomma. Quindi la corsia d'emergenza col proprio ritmo indica un po' il passo lento, insomma, guardarsi attorno. Bene, allora corsia d'emergenza. Corsia d'emergenza. One, two, three. Il sole splendeva sui binari in Sicilia, mutamenti di rotta passando lo stretto, lasciando il ricordo e la ruggine appresso, pagando il biglietto, il viaggio senza ritorno. Le facce ghignanti su una foto di gruppo, ragazzi corrosi da lasciare in soffitto, la memoria che insegue un paesaggio lontano, con le luci di suoni di una storia sbiadita. E non hai oscura della tua vita, no, non hai capito bene, la preghiera lontana sembra dire qualcosa, il seme raccolto, la colpa e il perdono, il calore negli occhi ed il vento alle spalle, preferendo viaggiare in corsia di emergenza. Thank you. corsia d'emergenza erano Alberto Mancinelli e Salvo Ruolo dal vivo qui nei nostri studi a Blu Radio Veneto. A me questo brano ricorda un po' Massimo Bubola. Non so se è un riferimento che tu apprezzi o... Sì, non conosco, nel senso ho visto un paio di concerti, Bubola dal vivo e conosco il Bubola con De André. Ma quello lo conoscono canzone. Tutti, diciamo. Sì, cioè le sue debut da solista non lo conosco molto. Probabilmente la vicinanza può nascere anche dal fatto che avete radici musicali comuni. Abbiamo sicuramente comuni, radici insomma. Comuni che affondano nella musica americana, ovviamente nel folk, nel blues, nel rock americano. E quindi sì. Tu sei più simpatico di Bubola, però. Non saprei dire. Non lo conosco. Ha un carattere abbastanza deciso. Ecco. Sì. Una sera ero a vedere Steve Earle a Verona in un teatro. E arriva lui dopo che Steve Earle ha iniziato con Alison Moore, mi pare che fosse la moglie, no, di Steve Earle. Mi pare di sì. Che ha aperto il concerto di Steve Earle. Lui arriva un po' in ritardo, dopo qualche minuto si alza e se ne va. Però un po' con... adesso io non so se magari l'hanno chiamato, sicuramente l'avevano chiamato al telefono per andare via, per quello è andato via subito dopo qualche minuto, avrà avuto da fare per non vedere Steve Earle, diciamo. Però mi è rimasta impressa perché era proprio nella poltrona vicino a me, ho detto oh, cavolo, Massimo Bubola. Però bravo, insomma, viene. Poi probabilmente l'avrà chiamato la moglie perché aveva da fare a casa probabilmente. Dunque tu, a parte c'è questa cosa particolare che ho appena scoperto, Salvo e Alberto sono entrambi siciliani. Sì. Di nascita, giusto? Sì, sì. Anche se due città abbastanza distanti, etnie addirittura. Sì. Quindi veniva naturale pensare che vi conosceste da prima, invece vi siete conosciuti dopo esservi trasferiti entrambi a Padova. Io avevo messo un annuncio, mi ero appena trasferito a Padova, appunto, cercavo un musicista con cui suonare. Ho messo un annuncio, avevo messo i riferimenti musicali e la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di Salvo. La prima cosa che ci siamo detti, riconoscendo l'accento, ma sei siciliano? Cioè, ah sì. Allora, l'annuncio non era scritto in siciliano, chiaramente. Era scritto in italiano, corretto. Ma digli il titolo, qual era il giornale? Il giornale era... E chi si ricorda più? No, il giornale era quello... Quello di Donnine Nude, là, quello di Scambio Coppia. Play Pedrocchi, credo si chiama. No? Play Girl Pedrocchi. Quindi tu ti eri trasferito a Padova e immagino non avessi molte conoscenze in città. Non conoscevo nessuno, io mi sono trasferito qui perché mio fratello abita qui e non conoscevo veramente nessuno, quindi... appunto mettere un annuncio e cercare qualcuno con cui suonare era anche un pretesto per trovare appunto fare amicizie nuove, insomma. Ho avuto il primo che mi ha chiamato è stato lui e mi è andato bene. Il fortunato estratto. Sì, ma in realtà è un po' così, Stefano, perché cioè, tu cerchi dei musicisti. Sì. Colmare la distanza chilometrica è molto facile, colmare la distanza culturale è molto più difficile e quindi è veramente... È stata una fortuna. Sì, questo trovare... è un discorso che è un mio vecchio cavallo di battaglia. Mi è capitato di trovarmi a livello quasi di fratello con gente che abita in Norvegia. Esatto. o in Francia, mentre con degli altri padovani non c'ho niente da dire perché è come se vivessero su un altro mondo rispetto a me, insomma. Sono quelle cose che danno molto, molto, molto da pensare. Sì, fra l'altro io ricordo che sull'annuncio io ho messo dei riferimenti musicali anche abbastanza, cioè non comuni, non è che avessi scritto che so Dylan e Neil Young che sì, ci casca dentro. Ho messo anche Dream Syndicate, Died Pretty, cose così, Green on Red, cioè cose che ascoltiamo veramente io e Salvo. Calma. E poi è arrivato Radio, poi in realtà Blu Radio Veneto. Siamo in due, siamo in quattro ad ascoltare, quindi va bene. Ci ascoltiamo un altro brano tratto dall'album Lucine Intermittenti, si intitola Formalità. Thank you. stai seduta bene a preoccuparti delle tue formalità. Con attenzione fissi le tue mani e reprimi sguardi imbarazzanti. Mi racconti le tue mosse decisive, ma non dici che non vuoi star più da sola. Non capisco la profondità delle tue passioni un po' confuse. Io non sono poi così brillante, ascolto solo rock and roll, ascolto solo rock and roll, ascolto solo rock and roll. C'è sempre qualche idiota che sorride quando non richiesto. I suoi denti scintillanti al buio consigliano un acquisto che non serve. Volevo dirti che non me ne importa niente delle tue stanche formalità. Occupiamo solo spazi differenti e andiamo avanti su linee parallele. Io non sono poi così brillante, ascolto solo rock and roll, ascolto solo rock and roll, ascolto solo rock and roll. Abbi un po' più cura di te, la tua grande semplicità, perché non ho capito niente della tua grande semplicità. Io non sono poi così brillante, ascolto solo rock and roll, ascolto solo rock and roll, ascolto solo rock and roll. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era formalità, con questa frase io ascolto rock and roll come se fosse... Io ascolto solo rock and roll. Ascolto solo rock and roll. E, non per farlo apposta, mi viene in mente il nuovo Bubola, perché venne qua mio ospite qualche anno fa e appunto parlavamo della musica alta, musica bassa, no? Sì, cioè, sì. E lui è... con la sua diplomazia appunto che lo contraddistingue, se l'ha presa con quelli che fanno il jazz, perché dice che hanno la puzza sotto il naso. No? Quando dici io faccio rock and roll, ti trattano come un pezzetto. Invece lui sosteneva, a mio parere ha ragione, che la grande musica non basta che sia ben suonata, ben composta, ma deve anche riuscire a creare una connessione con tanta gente. Cioè, alla fine Dylan ha scritto dei testi che sono di grande complessità, però li ha scritti su canzoni che poi canta anche uno mentre si fa la doccia o su una base blues. Sì, le sue prime canzoni insomma sono tutte su basi folk blues, insomma, che sono tre accordi, cioè, sì, infatti non ce n'è uno di meno né uno di più, insomma. È riuscito a comunicare con tanta gente e comunque su argomenti alti, su prodotti, su cose artisticamente di valore, mentre magari fare una cosa straordinaria ma che capiscono 10 persone in tutto il mondo resta un po' più, come dire, fine a se stesso. Sì, però l'altra sera forse l'anno scorso d'estate, con Cesare Basile, che è uno dei nostri amico anche di Alberto, conosciamo benissimo qua, si parlava del fatto se oggi De André avesse avuto la stessa o lo stesso, cioè ci chiedevamo la domanda con quel modo di cantare. Beh, se fossero andati, la domanda è questa oggi. De André, ecco, De André oggi avrebbe avuto la stessa diffusione e lo stesso successo? Ecco, è una domanda a cui impossibile. È una domanda a cui sarebbe bello poter rispondere. Io la so la risposta, non voglio essere, però mi pare che oggi sì, sia un po', però senza nemmeno chiuderci nel recinto, Cioè, a me fa piacere, per esempio, che gruppi come gli After Hours vadano, anzi, che vadano, che abbiano visibilità, è una cosa ottima. Sì, ci hanno impiegato 10 anni per riuscire a... Sì, diciamo 10 anni prima di riuscire a tirare fine mese. Perché loro hanno iniziato a cantare in inglese, ricordo, per 5-6 anni, però non facevano niente assolutamente. Poi con Germi hanno avuto un po' di risultati e poi, vabbè, con Hai paura del buio, esatto. Sono esplosi. Ma, però sono passati appunto. Sì, ma il fatto è anche che una volta c'erano le case discografiche che facevano investimenti, quindi se credevano in un musicista, anche se il primo disco andava male, almeno quelle buone insistevano, perché dicevano questo era del talento, stavolta è andata male. Poi è stato verso gli anni 90 che hanno cominciato a fare questa politica dell'usa e getta, il musicista che toppa lo scartiamo subito, e i risultati poi si sono visti, insomma, hanno segato il ramo su cui stavano seduti, per usare un eufemismo. Vabbè, siete qui anche per suonare, quindi adesso vi spronerei a suonare qualcosa. Il prossimo pezzo si intitola I Furbi, anche questo è sul CD, però ne facciamo una versione acustica. Questo pezzo è tratto liberamente da una poesia omonima di Charles Bukowski, che è uno dei poeti che ho maggiormente apprezzato in passato. Il testo sì, è liberamente tratto da questa poesia. Quindi non è una traduzione? No, alcune parti sono tradotte, però ne ho tralasciate altre, cioè la poesia è molto più lunga, è un estratto ed è una traduzione libera. Ma il titolo inglese com'era, I Furbi? The Clever, credo. Clever, giusto? Ottima traduzione. Alberto Mancinelli dal vivo su Blu Radio Veneto. Hanno case migliori, vite migliori, morti migliori, denti splendenti. Furbi hanno scarpe allacciate, risate perfette, profumi inebrianti, auto sgargianti. Furbi hanno sogni estasianti, folti capelli, amanti da urlo, mutande firmate. I furbi hanno cravatte allungate, giacche alla moda. Sapete cos'è? Davvero la morte è uno dei furbi che ti stringe la mano, ti abbraccia, ti bacia convinto e affonda i suoi denti splendenti fondo della tua anima, e poi ti fotte per sempre, e poi ti fotte per sempre, e poi ti fotte per sempre, e poi ti fotte per sempre. Thank you. questo brano era I Furbi, che leggo qui e faceva parte anche della tua carriera passata, se ho sì, ben capito, la stessa. Con un duo, anche quello era un duo folktronico, ci chiamavamo proprio folktronic opera, io e Davide Truffo di Vigo Novo. questo pezzo faceva parte della nostra, sì, del nostro repertorio, era però suonato in maniera molto diversa. Sì, ma folktronic opera è quello che dice il titolo, cioè tu suoni la chitarra, il nome della band, tu suoni la chitarra acustica e lui suonava la chitarra elettrica e avevamo anche delle basi elettroniche, si utilizzava anche una tastiera elettronica, insomma lui faceva l'elettronico, facevo il folk. Prima parlando degli After Hours hai ricordato che avevano cominciato cantando in inglese, mi pare che sia una cosa successa anche a te dai titoli dei dischi, sì. Tu eri con gli Electric Bayons, sì, Bayons, primo gruppo in Sicilia ancora. In Sicilia, sì, In Sicilia c'era una bellissima scena musicale per un po' di anni, sì, sono state delle cose lì, in primi anni 90, quando appunto ho iniziato a suonare io, c'era una bellissima scena, soprattutto a Catania, devo dire, che è la città, io sono di Siracusa, la città che sta a 50 km da Siracusa, e lì c'era una bellissima scena. Infatti noi spesso andavamo, mi ricordo, a Catania a frequentare, a vedere i concerti, a frequentare anche altri gruppi, e all'inizio noi col mio gruppo suonavamo in inglese e facevamo una sorta, anche noi facevamo una specie di Paisley Underground con un 7-8 anni di ritardo e ho anche un country un po' psichedelico che veramente sembravamo degli alieni, devo dire, quando suonavamo giù a Siracusa, insomma giù in Sicilia. Sì, comunque devo dire che avevamo un certo seguito, forse per la stranezza della proposta. Beh, se vedo che avete fatto 5-6 dischi. Ho fatto, sì, allora facevamo le cassette, i demo tape. Ah, sì, giusto. si registrava con le bobine, il nastro, roba proprio ormai archeologia. Ne abbiamo uno qua dietro nell'altro studio, sì, 8 piste, 16 piste. Poi ricordiamoci di passare dalla stanza accanto prima di andare via. E poi abbiamo cambiato, anche noi abbiamo cominciato a porci il problema, cantiamo in inglese, in italiano, la gente ci capisce, non ci capisce, tutte queste menate qua, secondo me. Comunque noi ricordo che poi iniziamo a scrivere in italiano e da lì non sono più tornato indietro. Sì, poi vedo appunto varie altre collaborazioni, ma insomma parliamo ormai di un arco temporale di 20 anni, che non sono proprio pochi. Non sono pochi, sì. Hai cominciato molto giovane, però... Ho più di 40 anni, quindi... appunto... No, ho iniziato tardi in realtà, perché ho iniziato nel 91-92, quindi insomma, cioè io avevo 23-24 anni, quindi sì, sicuramente un po' tardi. Rispetto a Steve Winwood eri già, esatto, eri già anzianotto quasi. Sì. E, questo, vabbè, adesso è molto più facile. Beh, Bill Fay ha fatto un disco spettacolare, adesso quanti anni ha? 73, credo, sì, che ne abbia. Mi pare che non prenda la pensione da qualche anno ormai. A proposito di... Disco di bellissimo, straordinario. Abbiamo parlato molto qua. A proposito di quella generazione, prima di uscire di casa ho letto che è morto Richie Havens. Un altro. Ormai è la generazione, diciamo, di Woodstock, comincia ad avere... un'età per cui, sì, non dico che tutti i giorni, ma insomma è un stilicidio. Beh, io oggi ho letto, mamma mia, su un sito dedicato a Neil Young, che è il suo chitarrista a San Pedro, diceva che loro stanno facendo un tour mondiale, è sicuramente l'ultimo, perché San Pedro diceva: io sono il più giovane del gruppo e ho 64 anni e sento che già non ce la faccio, cioè proprio fisicamente non riesco a stare più molto sul palco, quindi... E diceva giustamente lui, è un problema che ci dobbiamo porre, perché anche Young c'ha 67 anni. 66. Non oso pensare cosa succederà quando, speriamo mai. Poi loro fanno anche una musica abbastanza fisica, quindi... Sì, poi diciamo di gente energico. Alieni da altro pianeta come Keith Richards non ce ne sono molti, insomma, sì. Hanno queste... capacità di sopravvivenza fuori. Lui deve essere veramente un esperimento genetico sì. di qualche altro pianeta. Per forza. È inspiegabile. Girano voci. Pare vera la notizia che lui ha detto che ha già fatto testamento, quando morirà regalerà. donerà il suo corpo alla scienza, perché lo possono usare per creare dei test antidroga per il ciclismo e per varie altre attività, perché sì, sicuramente non è più umano ormai, perché ne ha fatte e anche qualche politico italiano, mi pare, vero? Anche qualche politico, mi pare. Sì, è che ci divertono meno loro. Questi giovanottoni, diciamo, cresciuti male. Keith Richards è più divertente, ha un po' più di fantasia. Preferisco ascoltare Keith Richards, appunto, potendo scegliere. Sì. Ci ascoltiamo adesso un altro estratto dall'album di Alberto, si intitola Non c'è nessuno. Si lasci sfiorare, ma c'è il vicino che si schianta di coca. Non c'è nessuno che spezzi il tuo cuore, ma c'è qualcuno che finge stupore. Non c'è nessuno in questo zoo di dolore, ma sono i troppi che hanno in mano le chiavi. Alza il bicchiere, rifiuta il potere, con un buco nel cuore, sorride il cavaliere. Tanto fervore si inchina il servitore, che sai vale molto di più, sai vale molto di più. Che bussi alla porta, ma c'è il passato che resiste e non passa. Non c'è nessuno al raduno dei poeti, non c'è nessun altro libro sognante, non c'è nessun effetto speciale, solo troie di regime in mondo visione. Alza il bicchiere, rifiuta il potere, con un buco nel cuore sorride il cavaliere. Se chi nel servitore, che sai vale molto di più, sai vale molto di più. Abbia un'idea migliore, ma c'è sempre qualcuno che ti rifila un sorriso. Troppe risposte a nessuna domanda, troppi cantanti e nessuna canzone, troppi palloni gonfiati e nessun vero campione, troppi tatuaggi e nessun disertore. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, siamo circa a metà di questo appuntamento con Rock Wave Live. Abbiamo in studio Alberto Mancinelli, accompagnato dal suo amicone Salvo Ruolo, una collaborazione di lunga data la loro, e abbiamo appena ascoltato questo brano intitolato Non c'è nessuno, che era un'altra faccia, diciamo, di Alberto, un pezzo più elettrico. Sì, una specie di rock blues. Sì, è stato arrangiato, quel pezzo lì è stato registrato a Roma e arrangiato con un altro mio amico siciliano che vive a Roma e fa il produttore, arrangiatore fonico, si chiama Fabio Martorana. È stato lui ad aiutarmi negli arrangiamenti di quel pezzo lì. E vedo che il disco qua è nato in un periodo di tempo abbastanza lungo. No, in realtà si tratta di pezzi scritti in varie epoche, diciamo. Poi sono stati assemblati tutti nello stesso periodo, insomma, appunto in quel periodo io abitavo a Roma, sono 3 anni fa, l'ho registrato lì, ma le canzoni sono state registrate in periodi diversi, sono state scritte in periodi diversi. La scelta di fare un disco di soli 7 brani è una scelta artistica o io sono per i dischi che per la concisione durino poco, tanto ormai appunto la gente ascolta neanche un pezzo, non lo ascolta più nemmeno per intero, quindi figuriamoci un album, un LP come era concepito un tempo. Sì, insomma, è stata una scelta, volevo fare una cosa così che durasse poco, insomma. Dura infatti 23 minuti. Sì, una volta sono stato considerato un mini esatto, con un minutaggio simile. E, il disco è in vendita quando vendita suoni dal vivo, diciamo. Te lo mandiamo a casa fatto a mano. Esatto, lo facciamo a mano. Beh, ieri ci siamo visti, è una dimensione che può funzionare. Ieri ci siamo visti per questa... si fa di necessità virtù, perché se non c'è un'etichetta che te lo produce, se nessuno te lo manda in giro, non se lo fa a casa. Serve poco ormai. Se lo vende. Abbiamo fatto questa riunione della Control Records con Davide Toscas, che è un caro amico, oltre che un artista. Ci sono dei ragazzi che hanno portato il loro CD fatto a mano, con le copie numerate, scritte a mano, ma fatto molto molto bene, come se noi andassimo a comprare la ricotta di pecora per farci il cannolo fatto in casa per ritrovare quella dimensione. Artigianato. È un po' un ritorno agli esordi del punk, se ci pensiamo, che quando la confezione del disco era parte, di solito erano i 45 giri, erano appunto parte dell'operazione, diciamo, della comunicazione che si voleva dare, e che spesso erano fatte a mano. Ci sono stati dei casi anche di Robert Smith dei Cure, quando i Cure erano già famosi, fece una decina di 45 giri sotto falso nome con le copertine dipinte a mano da lui, roba che se finisce su eBay ci compri un'automobile. Allora andiamo con un altro pezzo dal vivo. Vedo che ti sei già attrezzato di armonica. Questo sembra una roba d'antiquariato, in realtà. Beh, non so, l'armonica non è cambiata molto è sempre negli anni. Non è diventata digitale. Almeno quella. Soffia dentro. Il pezzo si titola Mutazione. Questo è veramente un vecchio pezzo, scritto almeno 14 anni fa. Bene, allora Mutazione, sempre dal vivo, la voce e le chitarre di Alberto Mancinelli e Salvo Luomo. Posso dire una cosa prima? Ricordo che questo l'abbiamo presentato a Trento, al premio Pavanello. Nel 1800. Qualche anno fa, non specifichiamo. Abbiamo fatto sto pezzo. Mi pare di sì, c'era la giornalista di Rai 2 che ti fece complimenti, ricordo questa cosa. Come si chiama? Mattei, quella che dice il telegiornale di Rai 2. So che Salvo, se c'è una donna di mezzo, sicuramente... Maria Concetta Mattei. Sicuramente se lo ricorda bene, ha una memoria selettiva. Ha gli occhi azzurri di un azzurro mare di Sicilia. Le canzoni se le dimentica, ma le donne se le ricorda tutte. Buon ascolto. Mutazione. Yeah. Thank you. cambierebbe la tua parte criminale senza nome. Apprezzo il tuo impegno nella descrizione vana delle tue virtù. C'è il conformismo dal sapore un poco amaro di caucciù e dipingi la mia faccia con un po' del tuo buonismo senza gloria. Fanno tutti un po' rumore e poi vinca il migliore. Fanno tutti un po' rumore e poi vinca il migliore. Fanno tutti un po' rumore e poi vinca il migliore. Fanno tutti un po' rumore e poi vinca il migliore. Bene, questo brano è Mutazioni, vero? Mutazioni, sì. Avevo paura di essermi dimenticato il titolo. E... stavo guardando sempre qui nella tua presentazione, c'è uno dei tuoi lavori, l'hai intitolato Canzoni sgangherate. Sì, era un lavoro acustico, solo voce e chitarra. Sgangherate perché molte di quelle canzoni erano nate, diciamo, un paio di mesi prima e sono andato subito a registrarle e le ho registrate anche, diciamo, buona la prima, ecco, quindi ci sono anche abbastanza molte imperfezioni, sono venute un po' sgangherate, però... Hanno anima, quindi sì, infatti mi piace l'idea, no? Cioè ti dà, rende molto bene il quello che puoi aspettarti, un titolo simile, cioè mette in chiaro le cose, guarda che questa è... Sì, ecco, non ti aspettare Dark Side of the Moon, ecco, insomma. Sì, sì, però è anche un po' ironico comunque, ecco. Chiaro. Non sminuisce il lavoro. Ma prima mentre andava il brano del disco stavamo parlando ad esempio di Neil Young, lui è famoso per aver lasciato anche degli errori tecnici nei suoi dischi. È uno dei miei, ho ancora degli idoli, a 45 anni è uno di questi, è veramente lui, che della registrazione fatta veramente male, nel senso è un re veramente, ci sono molte delle sue canzoni che però sono belle proprio per questo. Perché alla fine la musica è una cosa veramente umana, ecco, quindi non è roba da... Howard Gelb dice che il suo chitarrista preferito è Neil Young, per esempio. Esatto. Howard Gelb dice questo. Che è veramente un cafone. Io non la so suonare la chitarra, però in effetti Neil Young mi emoziona tantissimo, esatto, quando lo sento suonare, mentre altri chitarristi che sicuramente sono dei maestri, esatto, li trovo di una noia mortale, esatto. Lo facciamo noi per evitare... polemiche. Esatto, proprio così. Infatti, ma lui stesso, ricordo, io ho letto molte delle sue interviste, lui si è sempre dichiarato uno che non sa suonare la chitarra, cioè che è tecnicamente... Vorrei non saperla suonare anch'io. E che però dice ci mette molta anima, e questo diciamo... Beh, visto che questa è più sente. Una serata fra amici che chiacchierano, un aneddoto che lei si... parecchi anni fa, non so se vi ricordate che Neil Young fece un disco con i Pearl Jam, Mirror Ball, bellissimo, sì, peraltro. Straordinariamente. Non riuscì a far suonare i Pearl Jam come i Crazy Horse, perché che siano i Pearl Jam. Infatti vi ricordo, lessi un'intervista, credo, a Stone Gossard, che già i Pearl Jam comunque rispetto al 99% delle altre band hanno un suono molto più sporco nei dischi, sì. Infatti i loro dischi suonano bene quando si alza il volume, a basso volume suonano malissimo, però vi assicuro che quando si ascolta tanto alto suonano molto molto bene, parlo per esperienza personale. Comunque appunto Stone Gossard disse che andarono in studio con Neil Young e Young prese la chitarra elettrica, suonò la prima strofa di una canzone dicendo, e invece di cantare il testo diceva le note, no? Cioè gli accordi, sì, sì. Poi li ha guardati e ha detto avete capito come va? Loro hanno detto beh sì, cioè, erano entrati in studio in quel momento, no? Sono partiti, hanno fatto la canzone e insomma, così come è venuta, per lui alla fine, infatti alla fine poi loro hanno detto bene, come ti pare? Perfetto, passiamo a quella alla prossima. E loro rimasero, e praticamente hanno detto che in quel disco ci sono 4 o 5 pezzi che sono stati registrati in una botta sola, non mi stupisce e loro non l'avevano sentito prima. Lui fa i dischi in questo modo, veramente. E infatti è un disco che ha una potenza una pazzesca, potenza, sì, cioè sì, è un disco che sembra di essere lì con, in, sì, a un sì, concerto. Certo, sì, ci vuole anche una certa sfrontatezza, cioè dire il coraggio di dire ok, ci sono degli errori, ma io sono anche quegli errori lì, insomma. Esatto, e poi comunque magari quel pezzo lì lo fai 10 volte, alla decima volta magari non ci sono più gli errori, però hai perso l'immediatezza del pezzo, cioè, quindi perde anima. Secondo me questo è il suo modo di lavorare, proprio così, insomma. Infatti mi ricordo anche di un, non mi ricordo che musicista era, che disse che aveva fatto, che era andato in studio con un grande produttore e avevano fatto tutti i pezzi 10 volte, e poi quando hanno fatto il disco alla fine si sono resi conto che quasi tutti i brani erano la prima era buona, era la prima versione, la prima cosa, perché certo, le versioni successive perdevano il pathos, diciamo, esatto, così. Molto spesso è così. Dylan ricorda, sì, anche un altro buona la prima, del tipo vabbè, adesso andiamo a mangiare i panini e va bene. Dylan è anche prima, famoso per dire alla band girarsi e dire facciamo questo pezzo qua, e che la band non l'aveva mai suonato prima. Infatti non per niente si porta dietro da anni gli stessi musicisti, che sono gli unici che regolano questo tipo di stress. Però tra l'altro magari dice suoniamo questo pezzo qui, e magari lui stesso poi lo fa in maniera completamente diversa, sì, poi magari si ricorda, so, Like a Rolling Stone, ah sì, dovrebbe suonare in do, e poi magari la fai fai in un'altra tonalità completamente stravolta. Però non vorrei che dessimo un messaggio ai giovani, noi che abbiamo circa 80 anni a testa, di immaginare che la musica sia, lo dico questo perché insomma, con i ragazzi con cui lavoro a scuola e facciamo sta rock band, gli dico che è molto importante lasciare che l'anima scorra, no? E quindi buona la prima. Però è altrettanto importante impegnarsi moltissimo. Sì. E sono convinto che naturalmente i dischi di questi grandi sono diventati tali perché naturalmente 12 ore al giorno suonavano, si impegnavano a immaginare il pezzo, naturalmente. Quindi buona la prima, è perché dietro, come dire, è buona la prima enorme, perché c'è una complessità dietro che poi sfocia in una cosa che appare semplice, in realtà semplice non è. Quindi la vecchia storia di Picasso, no? Lui poteva permettersi di fare quello che faceva perché prima aveva dimostrato cosa sapeva fare, diciamo, nella pittura esatto, tradizionale. Cioè, non volevo dare un messaggio che tipo buona, tipo cazzone, no, invece sei uno che lavora 8 ore al giorno e poi dopo sulla propria musica, sui propri testi, e poi viene fuori quello che deve venire. Il prossimo brano qua vedo si intitola Il mio cammino, è autobiografico. Tu spesso canti in seconda persona, mi pare. Dipende, no? C'è in seconda, in prima, in terza, no? C'è qualcosa di autobiografico. In realtà volevo riprendere My Way di Sinatra, però. che non l'ha scritta Sinatra. Sì, no, mi ricordo una sua interpretazione. Sì, beh, chiaramente lui l'ha portata. No, vabbè, scherzo. È un vagamente autobiografica, ma non, niente di più. Bene, allora ci ascoltiamo questa Il mio cammino. Bellissimo pezzo. Sole spacca la mia pelle, l'ora alta del mattino. Sento proprio così fiacco, sospeso in cima su quel filo. Lontano fischia un treno attraverso la pianura. Ogni volta che mi fermo, rimetto in moto il mio cammino. Sbatto forte contro il vetro, finestra chiusa. Come cambia il tempo, il gioco di una vita. Sempre stato un problema che demolisce la tua stima. Ogni volta che mi fermo, rimetto in moto il mio cammino. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E allora, questo era il mio cammino. E visto che, diciamo, il cuore della serata è la musica dal vivo, adesso si stanno organizzando sulla scaletta Alberto e Salvo, e direi che potremo subito metterli al lavoro. Yeah. Al lavoro, al piacere, sì. Anche più che lavoro. E, cosa ci suonate adesso? Adesso un pezzo, diciamo, relativamente recente, scritto un paio d'anni fa, si intitola Questa lunga strada. È una specie di folk psichedelico. 1, 2, 3, 4. Nell'aria che incombe, che ti porta verso casa stasera, la linea bianca sulla strada che corre e ti spinge a trovare il tuo posto. C'è un discreto imbroglio da scoprire, il tuo spirito è nero petrolio, ma vai avanti, vai avanti, senza mai sapere dove. Hai smarrito le chiavi d'ingresso, ti guardi attorno e ti senti un alieno. Qualcuno sembra perso nel vuoto, ma la sua storia non vale di meno. Strada nella tua testa, c'è un vortice di stelle turchesi, ci sono bugie a cui è meglio credere e bugie da rifiutare in serie. Stai facendo del tuo meglio e sai che il meglio non è mai abbastanza. Ci sono nani che sembrano giganti, ma l'orizzonte è uno specchio deforme. Hai smarrito le chiavi d'ingresso, ti guardi attorno e ti senti straniero. Qualcuno stenta i suoi denti d'oro, mostra la via e il suo magro tesoro. Ci sono storie da ricordare e lunghi anni da dimenticare, non c'è tempo per pensare, per dire addio, per arretrare. C'è una lunga strada nella tua testa che ti spinge a cercare il tuo posto, ma le rotte sono sparse nel cielo e a volte è meglio cambiare discorso. Hai smarrito le chiavi d'ingresso, ti guardi attorno e ti senti un alieno. Qualcuno sembra perso nel vuoto, ma la sua storia non vale di meno. Prima, credo mentre eravamo fuori onda, si citavano dei gruppi Paisley Underground come sì, riferimenti musicali, fra cui Rain Parade. Rain Parade, questo sì, era un pezzo che poteva essere sì, su quella falsa riga là, molto bravo Salvo alla chitarra, però questo era un pezzo che si potrebbe suonare anche in elettrico, sì, direi, con grande efficacia. Sì. Matt Piucci. Matt Piucci. Sì, anche un po' anche Young, così ha fatto delle cose così. Beh, erano un po' tutti i figlioletti, diciamo, esatto, di Young, esatto, tutto il Paisley Underground. Sì, sì, vero. Anche i Dead Pretty un po', così, ricordano un po'. Sì, sicuramente. La coesione strumentale fra Alberto e Salvo è dovuto al fatto che sono andati insieme da molto tempo, ma avete fatto anche una serie di registrazioni di cover, sì, ci puoi elencare un po' di... Poi ce ne farete una di queste anche, no? Sì, abbiamo messo un po' le canzoni un po' di gente che noi ovviamente apprezziamo, stimiamo, ascoltiamo, quindi abbiamo registrato un po' di... abbiamo mescolato un po' i generi, soprattutto americani, che riguarda il folk, il blues. Abbiamo suonato con due chitarre acustiche, quindi abbiamo anche trasformato dei pezzi prettamente rock in pezzi acustici, che abbiamo registrato, da Bonnie Prince Billy a Hills, a Johnny Cash, a Cash ovviamente, passando per Dylan naturalmente, John Young, Mellencamp, Young e Wilco, sì, anche Steve Wynn, insomma tutti un po' il nostro pantheon, come si dice, non so cosa voglio dire. Magnifica selezione. Il nostro inferno, esatto, diciamo. Poi anche dei bluesmen, abbiamo messo un pezzo di Skip James, sì, roba del bellissimo, 32 credo. E qualcosa anche di Townes Van Zandt, dei Rolling Stones, insomma un po' di tutto abbiamo fatto, ci siamo divertiti più di altro. Immagino. Cantina Songs si chiamavano, perché avevamo il vino vicino, la Bonarda, quella quindi che quindi si partiva, diciamo, bene, e poi si degenerava un po', sì, diciamo, sì. Va bene, andiamo con un altro estratto dall'album Lucine Intermittenti, si intitola Dolce Venere dell'Etere. Bello. Visioni di vite lontane da qui, piovono pietre, va bene così. Mentre piovono pietre, va bene così. E aspetti qualcuno che gridi il tuo nome, e aspetti qualcuno che gridi il tuo nome, e aspetti qualcuno che gridi il tuo nome, e aspetti qualcuno che gridi il tuo nome, e allora non sei più sola di me, e allora non sei più sola di me. E allora non sei più sola di me, e allora non sei. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Dolce Venere dell'Etere, l'Etere dove ci troviamo in questo momento in maniera figurata. E, questo finale molto psichedelico, ecco, qui si sente proprio l'amore per la psichedelia, soprattutto quella americana, però esatto. Un po' diversa da quella inglese. E, visto che abbiamo parlato appunto prima di tutte queste cover che avete fatto, adesso chiaramente li abbiamo costretti con la forza a presentarcene una, nell'ampio repertorio disponibile la scelta è caduta su un brano di Neil Young. Sì, che è Pocahontas, che è un vecchio brano del 78, credo, insomma, però ancora Young lo suona dal vivo ancora adesso. Sì, è uno dei suoi... Gliel'abbiamo passato noi, perché era nel cassetto, insomma, poverino. L'aveva dimenticata, noi scritta, appena ascoltata la nostra versione. Scritta nel bagno da noi. Ed è una canzone che parla poi degli indiani d'America. Degli indiani d'America, esatto. Pocahontas. Noi un po' la improvvisiamo, perché è un po' che non la suoniamo, quindi... Verrà come verrà. Verrà bene, sicuro. Green and the homeland we've never seen. They killed us in our teepee, they cut our women down. They might have left some babies crying on the ground, but the fire stayed and the wagons come. And the night falls on the setting sun. Massacred the buffalo, kitty corner from the band. The taxis run across my feet and my eyes are turned to blanks. In my little box at the top of the stairs, with my Indian rag and a pipe to share. Wish I was a trapper, I would give a 1,000 pelts, sleep with Pocahontas and find out how she felt in the morning on the fields of green in the homeland we've never seen. Maybe Marlon Brando will be there by the fire to sit and talk of Hollywood and the good things there for hire and the Astrodome and the first DP. Marlon Brando, Pocahontas and me. Marlon Brando, Pocahontas and me. Pocahontas. Allora, dalla regia mi correggono, era il 1979. Rust Never Sleep. Rust Never Sleep, sì. La side acustica, era un vinile all'epoca, aveva... Sì. Una facciata acustica e una facciata elettrica. Infatti è un ottimo disco, nel caso qualcuno fosse appena atterrato da Marte e non conosca Neil Young, no? Perché ha le due facce di Neil Young, sì, insomma, sì. Quella da solo e quella con i Crazy Horse. La folk e quella rock. Mio figlio da piccolo, quando fino all'età di 10 anni, voleva ascoltare solo quel disco là. Quindi basta abituarli da piccoli, basta mettergli le cuffie proprio mentre dormono la notte e sei a posto. L'avevi infilato nella copertina dello Zecchino sì, d'Oro, così sì. Lo hai... Nel diario delle scuole materne gli ho messo quel disco lì. Va bene, e, ci stiamo avvicinando alla fine di questo appuntamento con Alberto Mancinelli, accompagnato poi da Salvo Ruolo. E, in effetti il duo ha un'altra efficacia rispetto a uno da solo, cioè riuscite sì. Ad armonizzare molto bene, si sì, sente, insomma, anche arricchisce là. Un po' i pezzi, insomma, suonare con un'altra chitarra, un'altra voce, insomma, gli arrangiamenti, sì, ma anche perché mi pare che abbiate due stili chitarristici abbastanza diversi, quindi sì. Anche... e poi comunque abbiamo studiato, quindi no. Scherzo. No, abbiamo tecniche un po' diverse, ma si amalgamano abbastanza bene. Sì, cioè, poi io compro le chitarre da Fioraso, quello della ferramenta, e Alberto le compra. Io le costruisco. Le costruisco. Cioè, io le incollo. Quindi siamo costretti a suonarle in maniera diversa. Vabbè, ricordiamo appunto che il disco Lucine Intermittenti, che abbiamo ascoltato in buona parte, è appunto qui a Padova, si riesce a trovare in qualche maniera, oppure tu hai anche... No, proprio lo dico chiaramente, si riesce a trovare quando... scrivendomi, telefonandomi, quindi attraverso il sito. Io ho un sito mio personale che è albertomancinelli.altervista.org. Ok. E poi anche su SoundCloud, sulle nuvolette, c'è anche lì, ci sono questi pezzi qua, ma anche altri pezzi che io ho registrato in passato e sono anche lì, diciamo, reperibile. Sì, SoundCloud vedo che sta prendendo piede, sì, è un formato molto, molto buono per i musicisti, infatti, sì. Molto efficace perché permette appunto di far ascoltare la musica. A chi è curioso. Sì. Io purtroppo non ho un profilo Facebook, credo di essere l'unico al mondo. Penso. Ma quindi non... siete in 3 o 4, è una cosa molto snob ormai non avere il profilo Facebook. Non è snob, perché io veramente davanti al computer faccio molta fatica. Io sono veramente del 900, nel senso che 20 minuti già per me davanti a uno schermo sono già tanti, quindi suono poi la chitarra acustica, appunto, come, cioè, sono proprio antico, non è una roba snob, è proprio... Comunque l'ho convinto stasera di fronte a un bicchiere di blended buono che lo farà per scriverò il, a giusto Facebook. Per lo dite come se fosse una cosa che uno di nascosto, un lavoro impegnativo che ci vuole una mezza giornata, esatto. No, perché poi bisogna esserci dietro, è quello che io non riesco, sì, beh, diciamo, chiaro, insomma, a aver la pazienza. Tu, Maurizio, ce l'hai il profilo? No, ma No. Maurizio è il profilo è quello di Blu Radio Veneto su Facebook. Dove... Allora nostri... siete in due. Siamo in due, quindi. Sotto falso nome. Il nostro regista ci dice che ce l'ha. Sotto falso... Sì, beh, ci sono quelli che ne hanno due o tre sotto falso nome, no? Perché... per ragioni loro, diciamo così. E, bene, siamo appunto verso la fine di questo appuntamento con Rockwave Live. Vi lasceremo come nostra abitudine con un brano per, dal vivo per augurare la, la buonanotte. L'avete scelto ad hoc, diciamo sì, così. È un pezzo non proprio, non proprio divertente. Si intitola La preghiera per un precario. Una canzone abbastanza di attualità, purtroppo. Infatti è una canzone che parla di precariato, di lavori infimi, di schiavitù moderna, tutte cose che purtroppo sono molto attuali. E anche questa canzone l'ho scritta alcuni anni fa, perché diciamo mi prende molto da vicino. Non speravi di precorrere i tempi, perché qualche anno fa se ne parlava, diciamo solo, ne parlavano solo quelli che erano direttamente coinvolti, magari sì, era una cosa un po' di nicchia. Io ero direttamente coinvolto, però sono rimasto ancora, cioè non sono uscito insomma da quella situazione, quindi ma adesso riguarda, è abbastanza, adesso riguarda veramente quasi tutti. Sì, è una cosa molto molto comune purtroppo. È una ballatina molto breve, folk, cinguettante. Cinguettante, sì. Sai che tu sei fuori da questo mondo, ma lo sai che quando uno dice cinguettare tutti pensano Twitter. A Twitter automaticamente. Non sono neanche su Twitter, mi spiace. Leggevo il giornale l'altro giorno, parlavano appunto dell'elezione, perché abbiamo avuto sì. La rielezione del presidente. Giovane presidente della Repubblica. Esatto, ti dirò, in un certo senso è più giovane lui di tanta gente che c'ha 30 anni di meno. Sì. Comunque, sì, naturalmente sì. Certo. Al di là di quello, appunto sul giornale scrivono, è arrivato il cinguettio dell'onorevole d'Italia, che se uno non sa, pensa che questo è deficiente, è lì in Parlamento sì. per eleggere il presidente, si mette a cinguettare. A questo punto scriviamo il Twitter e evitiamo di tradurlo in italiano, sì, perché forse fa un po' ridere insomma l'idea che magari un signore di 60 anni che pesa 80 kg si metta a cinguettare. Noi siamo, vabbè, siamo un paese dove l'elettorale si chiama Porcellum, quindi sì. È una specie di zoo ormai. Bene, allora chiudiamo questo appuntamento con Rockwave, con la canzone Preghiera per un precario, sperando che la preghiera sia esaudita. Ce la volevi dire? Sì, volevo ringraziare naturalmente voi che siete, siete una radio che fa... che fa ancora la musica che non si ascolta da tutte le parti, quindi fate un servizio a chi non ha grandi spazi. Quindi volevo ringraziare Stefano Dainese, Maurizio Calzavara, Alberto Prisco, il nostro regista Agostino, naturalmente, Agostino, il grande che, Agostino è quello che lavora di più, quindi bisogna ricordarlo, perché non siete in molti a farsi, io non ne conosco moltissime di radio, quindi davvero bravi e competenti, quindi lo dico perché è così. Siete sempre benvenuti, anzi grazie a voi. Diciamo che Salvo tornerà prossimamente per presentarci il suo bellissimo disco che finalmente dovrebbe vedere la luce. Facciamo una preghiera anche per quello. Grazie. E vi lasciamo con questa preghiera per un precario, ringraziando Alberto Mancinelli grazie per la sua presenza, è stato un piacere. Grazie. Dolore, fanne carne da cannone, se la tua vita è intermittente, la dignità non vale niente, raschia il fondo dei tuoi bisogni, fai felice il tuo padrone, sei lo schiavo più moderno, lavoratore interanale, e ti accontenti di un po' di niente, fermo al palo impotente. Dai un nome a questa pena, e cosa porterà? E cosa porterà? Cosa porterà? Il tuo progetto ha preso il volo, il tuo futuro vuoto a perdere. Non comprendi i comandamenti del nostro grande Dio mercato. Striscia pure sui marciapiedi, se non hai le mafie giuste, sei lo schiavo più moderno. Sei la carne da cannone. Ti accontenti di un po' di niente, fermo al palo impotente. Dai un nome a questa pena, e quale senso ha? E quale senso ha? Cosa porterà?